giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa con silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco. In questa inverno c'è qualcosa che non va. Non ha Natali da una volta nelle dita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei, come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio. E questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che quest'amore che vedi non si sciogliesse come fa la neve al sole, senza parole. Dovrei capirti quando vedo che vai via, e non amarti quando non vuoi farti amare, senza cadere in una nuova gelosia che è solo tu. Fai provare. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio. E questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che quest'amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole, senza parole. E questa volta un'altra donna non verrà a cancellare la impronta sul cuscino. Anche la luna lì alla testa non ci sta, non vuole più starmi vicino. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio. E questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che quest'amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole, senza parole. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio. E questa sera è troppo triste, troppo uguale.